pillola di luce del 6 agosto 2009. Dalle meditazioni di Sant'Agostino di Ippona, vescovo. Oh mio Dio, il mio cuore è come un mare vasto, sempre agitato dalle tempeste. Fa che trovi in te la pace e il riposo. Tu hai ordinato ai venti e al mare di calmarsi, e all'udire la tua voce si sono placati. Vieni a placare le agitazioni del mio cuore, affinché tutto in me sia calmo e tranquillo, affinché io possa possedere te, il mio unico bene, e contemplarti. Trovi presso di te un luogo di riparo e di pace, tutta accesa dalla gioia che possa cantare. In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.